La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Per comprendere l'articolo 44 occorre risalire agli anni dell'Assemblea Costituente ed è facile allora ricordare che in quegli anni l'Italia era un paese a vocazione essenzialmente agricola. Essendo l'agricoltura una delle basi fondamentali dell'economia, non poteva mancare in Costituzione un articolo sulla questione agraria. La questione agraria era una questione risalente, perché era una questione che nasceva a fine 800 per la trasformazione e il superamento del latifondo. Ma tuttavia il Costituente interviene soprattutto per garantire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali. A questi fini si prevede che la legge possa intervenire anche imponendo obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, in maniera proprio da consentire la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive. In questa impostazione è un articolo sicuramente un po' anacronistico e un po' datato proprio per la trasformazione della società, ma è un articolo che ha rivestito la sua importanza in questa fase di trasformazione storica della società agraria. Tuttavia lo stesso articolo 44 contiene ancora oggi importanti affermazioni di principio, soprattutto nella parte finale del primo comma, quando viene affidato alla legge di aiutare la piccola e media proprietà, e ancora al comma successivo, quando si prevede che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane. Piccola e media proprietà, zone montane, sono i classici ambiti in cui ancora una volta si esplica l'eguaglianza sostanziale, cioè la Repubblica si impegna, come recitato in via generale nell'articolo 3, ad effettuare interventi che consentano a tutti la piena partecipazione e quindi piccoli proprietari, zone svantaggiate, tutelate e garantite per legge.